il tempo sterio di celarvi un segreto, fu legata sta la vostra fortuna di Bajazet d'Andronico e la mia. Oggi se voi bramate avran fine i miei segni e al genitore non cortese il libertone e pace. Vincitor già nel mondo non verrete per renderci felici che vincere voi stesso. Son vinto e amor non merito. Andronico ne tratta con Bajazetti atti del trionfo. Manca il vostro consenso. Forse Andronico ottene da voi. Al greco prence è noto il mio volere e già fa bella di vostre nozze al padre. Di mie nozze? Con chi? Con Tamerlano. O cielo! Signor, si fa. Io lo dico e ciò basta. Quel Tamerlano che è invincibile fuori al par del braccio, fatto schiavo in un punto del folle passione. Signor, non credo, ma se fosse vivo, che d'orrore m'empie l'alma un tale affetto. Asteria ben comprendo la fierezza del sangue onde sorridete, dove provoca il mio sdegno. Lo sveglia Asteria, che sprezzato il mio amore non m'assicuro della mia. Vedrete correre a vostri piedi il padre il sangue, ed un vostro rifiuto curberà ciò uno di voi di loro. Il genitore Andronico risolto. Oh, qual consiglio Asteria? Signor, se il prence greco necessario si rende a queste nozze, pria di inoltrarmi, intendo udir dalla sua bocca il mio destino. Amante genitor non può tradirmi. Io m'acconsento, anzi io bravo, il greco non può comprare per me, direndo il trono e il cielo per voi dire il letto. Come? Di chi? Di re. E Andronico l'accetta? Si può temere. Hai sorte? Asteria, io vi do tempo a un gran consiglio. Udite il greco e persuadete il padre. Uno in premio due troni e l'altro libertade e pace e vita. Da voi sola dipende rendere al genitor felice il fato, grande un amico e un vincitor beato.